partita loro la giocano fuori casa, però sapevamo di questa spensieratezza tattica da parte dell'allenatore Stramaccioni, quindi eravamo pronti, ma non ci ha trovato assolutamente impreparati. Però l'ho sentito con le mie orecchie, l'ho visto con le mie orecchie e ha fatto ironia sulla spensieratezza tattica dell'allenatore dell'Inter e dell'Inter. Tutti convocati di Carlo Genta. E va questo dolce spensierato, cia cia cia. Ah sì, che la notte sempre lui mi fa sognare. Ragazzi, quando affrontate l'Inter, attenti con le parole, eh. Franco Piantanelli in redazione, Paolo Corleoni in regia. Oggi abbiamo convocato il direttore generale dell'Atalanta, Pierpaolo Marino, che affronterà l'Inter nel prossimo weekend. Direttore, buongiorno. Buongiorno a voi. Attento alla scelta delle parole, nelle dichiarazioni prepartita, perché provinciale bocciato, spensierato bocciato, com'è l'Inter? Provinciale bocciato, spensierato bocciato, se no diventa ironia. E allora, sì. Allora che cos'è l'Inter? L'Inter è pazza. Adesso chiamiamo subito Stramaccioni per sentire se accetta questo. Vabbè, ma io da me lo devo accettare perché è l'inufficiale che lo dice, non lo dico io. Spensierata anche l'Atalanta, devo dire. Posso dirlo io o lei si offende se io dico che l'Atalanta è spensierata partendo a meno 2 di penalizzazione, 17 punti, come la Roma per i punti totalizzati, 3 in più del Milan, senza nemmeno troppi gol di Dennis, soltanto 2, siete spensierati anche voi? Sì, spensierati, diciamo così, da problemi contingenti. Che è una cosa che per l'Atalanta dell'ultimo anno e mezzo è rara, perché ci è capitato di tutto, tant'è che abbiamo scontato 8 punti in 2 anni, di cui 6 addirittura su una stagione sola. Spensierata in questo momento perché abbiamo avuto una settimana che dovremo incorniciare, la chiameremo la settimana dell'estate di San Martino, la benediremo sempre perché abbiamo fatto 7 punti in una settimana in 3 partite che sulla carta erano proibitive, soprattutto quella con il Napoli, però siamo definire una squadra di Colantuono spensierata non lo è mai, perché la tensione che sa elevare al massimo livello Colantuono non ti dà mai l'occasione, lo dico naturalmente con soddisfazione, questo immagino. Di essere spensierati, quindi sempre sul pezzo. Io convoco tutti i nostri ascoltatori spensierati e non all'800240024. Come l'ha visto il suo vecchio Napoli? Come l'ho visto? Contro di noi bene, contro di noi bene. Abbiamo giocato un tempo per uno, direi il primo tempo siamo riusciti anche a fare qualcosa più del Napoli, nel secondo tempo invece c'è stato un predominio del Napoli e per fortuna che abbiamo saputo difendere il gol marcato da Carmona nella prima parte della gara. Tanto la buona notizia di oggi è che Mazzarri oggi dirigerà regolarmente l'allenamento a Castel Volturno dopo quel breve ricovero in ospedale, quindi perché tutto lo può fare, anzi gli faccio gli auguri, me lo consenta, perché vorrei fargli pervenire gli auguri più cari, ma siccome è andata in una clinica della mia città di Avellino, che è una clinica di livello ottimo, eccezionale, io sono convinto che lì gli hanno fatto sicuramente, gli hanno rimesso a posto le quei dettagli di cui aveva bisogno, perché a me sembra sempre godere ottima salute e io glielo auguro di cuore. Un po' stressato forse in questo periodo. Ma quello è il fumo pure. Bisogna sottovalutarlo. Poi il fumo più di me che ho lavorato per 7 anni a Napoli, si può dire la pressione che Napoli sa esercitare su chi deve prendere decisioni sul Napoli. Immagino. Senta Pierpaolo Marino, ma di questi nuovi maghi, Harry Potter Stramaccioni e Merlino Montella, che cosa ne pensa, al di là della spensieratezza che Stramaccioni non tollera e mi sembra anche un filino presuntuoso in questo suo atteggiamento, però vabbè, o permaloso se preferiamo, ma di questi nuovi maghi che ne pensa? Ma guardi, intanto io vorrei dire che non per difendere Marotta, ma mi sembra che la dichiarazione di Marotta fosse innocua. Nel senso, sì, innocua, perché nel senso di dire, di rimarcare come l'Inter non temeva la Juventus, cioè venisse spensierata. Appunto, già nel fatto appunto. Che lo rimarcava vuol dire che la temeva quella partita appunto. Marotta, perché la Juventus poi non può essere mai spensierata, fra virgolette, perché la Juventus è stata fondata con l'obbligo di vincere fin da quando è nata. Quindi non che l'Inter sia di meno, però Marotta già in quella dichiarazione, secondo me, voleva dire: loro vengono qui che tutto quello che viene è grasso che cola e noi magari abbiamo qualche problema in più. Però se non gliela diamo nella comunicazione, nell'interpretazione della comunicazione, un po' di spazio e di poter dire che non ha esperienza in quello, Stramaccioni, visti i risultati che sta facendo, non potremmo dire più niente di sì. Dove può migliorare, almeno da questo punto di vista riconosciamogli che forse con un po' di anni in più di mestiere e di lettura della comunicazione avrebbe capito che Marotta non lo voleva offendere. Non lo voleva offendere, ma si è offeso solo lui, mi pare. Io perché devo dire, ritornando alla domanda, volevo dire, scusi se l'interrompo, ritornando alla domanda a cui poi non ho risposto, io dico, Stramaccioni, io sono curioso di conoscerlo, sarà la prima volta che con una mia squadra lo incrocio. Innanzitutto sarò curioso anche proprio di andargli a stringere la mano e di poter toccare questa favola vivente, perché io in tanti anni di calcio non avevo mai visto una carriera così repentina, e quindi se Moratti, i suoi collaboratori, Marco Branca che è bravissimo, Ausilio, gli hanno dato in mano questa Ferrari, io credo che l'abbiano fatto con grande convinzione e i risultati lo stanno dimostrando. Per cui mi farebbe piacere conoscerlo. Non sta facendo dell'ironia, vero, quando dice favola no, vivente? No, lo dico perché sennò si offende. Lo voglio conoscere, anzi spero di avere l'occasione di incrociarlo per conoscerlo, perché naturalmente, avendo conosciuto tanti allenatori, sono curioso proprio di poter guardare in faccia e capire che tipo di persona con il contatto. Senta, glielo chiedo in un secondo, poi la lascio lavorare. Lei ieri ha detto gli arbitri devono essere aiutati. Moratti non ha avuto le stesse parole nonostante la vittoria di Torino, eccetera eccetera eccetera. A me sembra che questa la soluzione attuale, quella dei due arbitri di fondo campo, abbia creato un gran casino. Devono essere aiutati, poi vediamo, insomma. Sì, io sono d'accordo sul fatto che i due arbitri di fondo campo in realtà poi erano stati messi con l'idea di evitare il gol fantasma o il gol non gol, come lo si vuol chiamare, ma in realtà finiscono per interferire, e quando più cervelli interferiscono su una decisione che è di un decimo di secondo, finiscono solo per magari aiutare a sbagliare chi invece non dovrebbe, ed è la figura centrale dell'arbitro. A questo punto, se lo dobbiamo aiutare, aiutiamolo con un mezzo che sia inattaccabile, come può essere il mezzo tecnologico. Io mi rendo conto, perché quando sono entrato nel calcio nel lontano 77 si diceva già questo, però ora che effettivamente noi abbiamo gli iPhone nella tasca e ci danno la possibilità di avere il mondo in tasca, non vedo come non sia possibile trovare un metodo tecnologico, come hanno fatto gli altri sport, per aiutare l'arbitro, che è la figura centrale del calcio e che magari continuerà pure a sbagliare, ma certo non perché è aiutato da altri, ma almeno che sbagli da solo, perché in questo momento le defaianze vengono proprio da quelli che sono nello staff, che erano stati messi per aiutare. Sono d'accordo, non sulla tecnologia, ma qui potremmo aprire un discorso che ci porta a notte. Io la ringrazio, è sempre un piacere. Con la Sampdoria Russo ha arbitrato benissimo, noi non avremmo avuto assolutamente niente da ridire, poi abbiamo vinto, ma Russo ha arbitrato veramente bene una gara difficilissima con la Pagnolata, però dopo ti capita l'errore del giudice di linea che ti fa annullare un gol valido, e a quel punto Russo cosa può fare? Un po' mettersi mica a litigare lì con il collaboratore? No, direi di no, non c'è il tempo. Grazie direttore. Prego, prego. Per Paolo Marino. Yeah! Indovinate chi è? Eh? Lo dico io, difficile. Rino Gattuso dalla panchina del suo Sion, uscito al 60esimo, gioca un'oretta e poi va a fare l'allenatore in panchina. L'allenatore sta seduto e zitto. E quello che grida è ovviamente Gattuso. C'è chi mi dice che sono simpatico come la sabbia nel letto. Ho ricevuto insulti peggiori, questo è perfino simpatico, è perfino carino. E non è interista, non si firma, ma non è interista. Quanto vai avanti a provocare stramaccioni non è altro di cui parlare. Io non provoco nessuno. Vi sembra che stia provocando stramaccioni, che peraltro mi è simpatico. Una delle cose più belle che ho sentito nell'ultimo anno è stata la sua imitazione di Cassano. Prima di ovviamente prima di ritrovarselo in casa, come ben sapete. 800 24 00 24 numero verde per essere convocati qui. Giancarlo da Bergamo, buongiorno. Buongiorno, tifoso juventino, sì. Volevo fare complimenti a Stramaccioni perché è venuto a Torino a fronte alta a giocarsi, certo, la partita, e l'ho apprezzato tantissimo questa cosa, certo. Altri allenatori sono venuti per cercare il pareggio, invece gli è andata, ha fatto una partita meravigliosa l'Inter a Torino, sì, e Stramaccioni ha preparato la partita in maniera meravigliosa, su questo non ho alcun dubbio. È andato a giocarsela con la sua forza, con la forza attuale dell'Inter, che sono quei tre davanti, tre attaccanti anche molto diversi uno dall'altro, vero. E che sono per ogni difesa, compresa quella della Juventus, molto difficili da affrontare. È vero, tra l'altro la Juve li ha affrontati anche bene perché hanno avuto pochissimo bisogno da gol fino al raddoppio di Milito. Volevo dire una cosa, appena partita è iniziata la partita, dopo pochi secondi la Juve in gol, e io naturalmente del Juventino entusiasta, quando ho visto il replay mi è venuto un magone. Quando l'arbitro poi non ha espulso Listeiner, il disagio è cresciuto. Cioè, volevo dire anche che per un tifoso corretto le decisioni arbitrali, anche quando sono gli errori arbitrali, anche quando sono a favore, sono un problema. Cioè, gli errori arbitrali sono un problema non solo quando sono a sfavore, ma in generale sempre. Tanto più che poi questo arbitro ha dimostrato che non era malafede la sua, ma era solo incapacità, perché la seconda parte, il secondo tempo, è stato invece diretto, sinceramente, tutto a sfavore della Juve, con tutte queste munizioni a raffica, quindi dimostrando che non c'era malafede, ma soltanto sì, compagine. L'unica piccola considerazione, in una partita come questa è venuto fuori il problema della mancanza dell'allenatore in panchina. Quando è entrato Guarin, mi è venuto un crampo allo stomaco perché presagivo quello che succedeva, perché c'era un centrocampo. Sì, è stata una gran mossa, però guardi che non sono convinto che pesi così tanto questa assenza di Conte in panchina, tanto che fino a questa partita la Juventus aveva fatto 28 punti su 30, più di così mi sembra impossibile. Indiscrezioni in chiave Champions, la saluto, Giancarlo da Bergamo, e grazie. Domani dovrebbe giocare Matri titolare, chiaro, si è fatto male Vucinic, porte girevoli nell'attacco juventino. Continuo a non capire, tornando alla partita di sabato sera, questa inversione delle gerarchie tra Bentner e Quagliarella, che mi sembra molto più funzionale al gioco della Juventus. Ma comunque, Giorgio da Prato. Sì, Carlo, buongiorno. Buongiorno. Io ho il cuore viola, quindi quest'anno finalmente rivediamo giocare a calcio come da anni non si vedeva fare, e sì, siamo contenti. Però io volevo fare una riflessione generale sul campionato, no? Non so se lei è d'accordo. Mi sembra che adesso fra due partite siamo a un terzo più o meno del campionato, no? A 13 partite fra due, e si è già visto più o meno molte cose, e credo che mai come quest'anno la classifica rispecchi fedelmente i valori in campo, perché a mio parere c'è una 5-6 squadre, io direi fino più o meno alla Roma, che sono in cima e sono nettamente a mio parere superiori alle altre tecnicamente. Un gruppetto di squadre che più o meno va dal Catania, grosso modo al Cagliari, l'Udinese, facciamo pure il Cagliari, che stanno giustamente nel mezzo e che sono buone squadre, e poi dal Torino in giù, che a mio parere sono squadre che è giusto che sia. E per questo io dico, veramente non capisco. Io lo vedo da Firenze, quindi lo vedo dal di fuori, però non capisco le contestazioni dei tifosi alla Sampdoria e soprattutto al Pescara. Il Pescara, a mio parere, era più competitivo l'anno scorso. Pescara è una squadra molto debole. Pescara è una squadra molto debole. Le contestazioni alla Sampdoria derivano da una fila di sconfitte che è stata veramente molto pesante. Quindi, insomma, non... Sì, però Se rimangono, se rimangono contestazioni che se rimangono nei, nei canali opportuni non sono non sono un problema. Il problema vero è che questi canali opportuni spesso vengono scavallati. Però io credo che il Pescara sia molto debole, la Sampdoria sia in un momento di difficoltà dopo essere partita fortissimo. Non mi sembra una squadra che ha la faccia da retrocessione alla Sampdoria. Dunque, adesso la ringrazio per questa panoramica sul campionato in cui non ha inserito però il Milan, che secondo me ha un qualche punto in meno del suo valore assoluto, che non è elevatissimo, ma comunque è una squadra che può stare alle spalle delle prime tre, facciamo così. Allora ci colleghiamo con Parigi ora, dove c'è Alessandro Grandesso, inviato della Gazzetta dello Sport, che io saluto e ringrazio. Ciao Alessandro. Buongiorno. Buongiorno a te. Partendo dalla cronaca, stasera c'è una partita semplice di Champions League per il Paris Saint-Germain contro la Dinamo, ma mi sembra che ci sia qualche casino in giro per la città. Sì, diciamo che la trasferta dei tifosi della Dinamo Zagabria non è stata vietata anche per decisione del ministro degli interni, ovviamente poi è stato difficile contenere i flussi, quindi ieri sera si sono presentati degli ultra, qualche decina, ci sono stati degli scontri a Piazza Bastia e ci sono stati anche degli arresti, centinaia di arresti. Quindi situazione non tranquillissima. E al Paris Saint-Germain com'è la situazione invece? Dopo la sconfitta interna con il Saint-Étienne, a proposito gol di Aubameyang, scuola Milan, e Ibrahimovic che ha fatto quel che ha fatto, già quell'entrata in semi kung fu, no? Sul portiere avversario, che gli costerà qualche turno di squalifica, non so quanti, non so se è stato deciso. Ma diciamo che per falli simili di solito la giurisprudenza qui in Francia indica due turni minimo, poi sì, bisogna vedere se gli avvocati del Paris Saint-Germain riusciranno a ridurre a uno o comunque magari fare uno più uno in condizionale. Ci sono varie prospettive, in ogni caso giovedì si riunirà la commissione disciplinare per decidere sul caso Ibrahimovic. Il Paris Saint-Germain si trova in una situazione un po' delicata, perché ovviamente c'è sempre molta attesa sulla nuova squadra galattica del momento. La sconfitta è arrivato un po' a sorpresa sabato contro un Saint-Étienne che non è una squadra particolarmente spettacolare, però ben ordinata in campo, e quindi è lì che si è giocato un po' la differenza, in particolar modo in centrocampo. Ancelotti era molto ottimista alla vigilia e non si aspettava questa sconfitta, perché la squadra girava bene da qualche settimana. Sì. La partita di stasera ovviamente dirà se è stato un semplice inghippo oppure se c'è qualcosa di più serio. Se c'è qualcosa di più serio. Te la butto lì secca, poi ti saluto. Prendono De Rossi a gennaio? Prendono De Rossi a gennaio? Beh, diciamo che secondo me il Paris Saint-Germain oggi è uno dei pochi club in Europa che può permettersi un giocatore come De Rossi. Questo sicuro. E quindi io penso che ci sia sicuramente qualche movimento nelle retrovie, se non altro per sondare la situazione del giocatore, per capire se effettivamente ha voglia di andarsene, e arriverebbe comunque in una squadra che ha comunque una struttura già impostata per fare cose importanti. Grazie Alessandro, buon lavoro. Grazie a voi, grazie ad Alessandro Grandesso della Gazzetta dello Sport. Prima di fermarci per la borsa, abbiamo un minutino, lo usiamo per andare a lezione dal professor Lotito con Pierluigi Pardo, sentite. La frase è? Pecunia non olite. Che significa? Che il denaro non manda profumo, in questo caso non manda, perché nacque da un problema all'epoca dell'imperatore Vespasiano, che voleva mettere una tassa sui bagni, i cosiddetti bagni dell'epoca, cosiddetti Vespasiani, e quindi dice tutti recriminavano il fatto che lui facesse tassare chi andasse al bagno, e lui disse no, pecunia non olet, quindi non manda odore il denaro. Quindi Italia, ma perché non vuoi ascoltare? Ci stiamo parlando con le Allora, quello che avete appena sentito era Cassano nell'intervallo della partita di sabato sera. Non fa il fenomeno. Taglia, stiamo parlando con Educazione. Questo era Cassano. Allora, il simpatico come la sabbia nel letto viene nettamente superato dal sei simpatico come un perizoma di filo spinato. Maria interista, ringrazio, mai indossato un perizoma in vita mia, immaginatevi di filo spinato, non ho idea. Voi però siete permalosi da morire, amici dell'Inter, siete veramente ma veramente permalosi, sembrate stramaccioni. 800 24 00 24 è il numero verde. Io scommetto che non vi volete perdere la seconda parte della lezione del professor Lotito, sempre con Pierluigi Pardo. I soldi sono soldi e basta. Lei è d'accordo? Ma io sono d'accordo se si riescono a coniugare con un fatto morale. Nella fattispecie non c'è nessuna controindicazione morale. Però non può essere considerato per via estensiva, perché pecunia non olet significa allora ammesso pure il trafficante di droga o chi fa delle cose illecite, cioè, invece questo sicuramente non può essere accettato, no? Capito? Se non avete capito vi faccio riascoltare, Vi minaccio di tutti di far riascoltare all'infinito le lezioni del professor Lotito. Allora, prima di Giuseppe dalla provincia di Firenze, che casca giusto, e di Alessandro da Milano, convocatissimi all'800 24 00 24, saprete che questa mattina ci è venuto a trovare i nostri studi, è venuto in studio con Alessandro Milan, il sindaco di Firenze Matteo Renzi, cui sono state fatte anche domande calcistiche. Cosa ha detto? E qua dobbiamo chiudere, devo fare la domanda del secolo. Ma la Juventus ruba, secondo lei? Guardi, io non parlo di calcio da almeno 2 anni a questa parte. Dopodiché credo che questo campionato sia il primo campionato veramente, veramente aperto dopo un po' di tempo. Beh, ci sono stati anche gli scorsi campionati, ma questo mi sembra veramente aperto. E sono particolarmente felice che ci sia una nuova leva di allenatori. Però lei ha visto risposta se la Juventus ruba. La Juventus ruba. La Juventus ha visto le partite di questo periodo. Non credo che si possa sempre dare la colpa agli arbitri. Poi una squadra che gioca meglio vince. L'Inter ha avuto la contestazione sul fuorigioco, però poi ha giocato meglio. Io so che lei, come dire, non, dal nostro tifoso dell'Albino Leffe, non era intensato alla partita Juventus-Inter. Però da ex arbitro smettiamo di dare la colpa agli arbitri. Perché poi alla fine cos'è accaduto? È accaduto che tra Juventus e Inter, comunque, nonostante un errore che Tagliavento ha fatto, ha vinto la squadra. Che ci sono un gruppo di allenatori giovani, sicuramente stramaccioni, ma mi faccia citare anche il nostro Vincenzino Montella, che stanno dando un segnale di rinnovamento anche nel mondo del calcio. Lì i rottamatori sono già arrivati, vediamo se arrivano anche in politica. Comunque io sono d'accordo con quello che dice Renzi, non so se Giuseppe dalla provincia di Firenze è d'accordo con il suo primo cittadino. Guardi, casca proprio a pennello, perché io prima di tutto volevo chiarire questa cosa, che il gol fatto dalla Juve in chiaro fuorigioco di Asamoah ha agevolato l'Inter, ha aiutato l'Inter. Ha aiutato a far cosa? Nel senso, glielo spiego subito, perché loro sono stati costretti ad attaccare, la Juve ha iniziato a difendersi, loro col passare del tempo prendevano coraggio e la Juve era sempre più intimorita. Però questo è un mio pensiero. Quello che volevo dire è che non ho 49 anni, ma non ho mai assistito a così tante lamentele di una squadra che ha vinto e continua a lamentarsi degli arbitri. L'ultima è stata questa qui, è stata una cosa. Cosa c'entra Renzi con Mala Juve ruba? Cosa c'entra Renzi con Mala Juve ruba? Sì, con la domanda, cioè a Renzi la Juve ruba, cioè Milan, una domanda del genere. Cioè, ma come si fa ad abbinare Renzi con tutto quello che sta accadendo nel panorama politico italiano con Mala Juve ruba? Era una domanda chiaramente provocatoria, no? Chiaramente non faccia lo stramaccione anche lei, Giuseppe. Era chiaramente una domanda che sottintendeva ironicamente una provocazione, no? Sì, no, ma guardi, mi creda. La Juve cosa vuole che rubi? La Juve ha vinto con pieno merito lo scudetto che ha vinto. Non sono d'accordo sul fatto che sia stata agevolata l'Inter dal gol in fuorigioco, perché gol è sempre meglio non beccarli. Non agevolate, ci mancherebbe, hanno vinto con pieno merito, questo ci tengo a sottolinearlo, hanno vinto con pieno merito. Quel gol, prima di tutto continuano a danneggiare, le decisioni arbitrali danneggiano più la Juve che gli altri. Ma su questo non vuol ribadire. Insomma, allora, se ti danno un gol in fuorigioco non è che ti danneggiano, se non ti buttano fuori un giocatore quando deve essere buttato fuori non è che ti danneggiano. Mi sembra un concetto un pelino distorto di danno questo, Giuseppe. Comunque la ringrazio, devo passare ad Alessandro da Milano perché sennò non facciamo in tempo. Alessandro, dica. Buongiorno. Allora, due cose, una considerazione e poi una domanda che faccio a lei. Allora, io ho fatto l'arbitro e guardaline. La gente non sa quanto è difficile segnalare solo quando qualcuno butta fuori la palla. Figuriamoci partite del genere, fuori gioco, e figuriamoci tutto il resto. Quindi è chiaro, uno dice la capisco perfettamente, soprattutto alla velocità con cui si gioca oggi a calcio. In eccellenza avevo gente che veniva dalla Serie B e le dico che solo segnalare chi buttava fuori la palla, guardi, era molto molto complicato, c'era proprio da sudare freddo, sudare caldo. Le dico questo. Seconda cosa, già che siamo tutti convocati, vado completamente fuori tema. Prego. E dico, la famosissima finale nostra che abbiamo perso, nostra, dell'Italia con gli europei. Considerato che io da quando capisco qualcosa, ho 45 anni, quindi più o meno dagli anni 80 in tema di calcio, non ho mai visto grandi partite dell'Italia in generale, cioè diciamo 70 brutte e 30 così magari, o anzi 20 così qualcuna bella. Ho visto un tempo di Sacchi bello, ecco, se vogliamo. Beh, insomma, qualcosa. Io ho visto Italia-Germania, ho avuto la fortuna di essere di essere là, insomma, Italia-Germania una di quel 10%, ma se no l'Italia come calcio, come gioco, come spettacolo, zero. Ma se l'Italia avesse giocato da Italia, secondo lei, ora è troppo facile dirlo perché è troppo facile, cioè giocando male, pensando a non prenderle, tutto quello che si vuole, secondo lei si poteva fare qualcosa in quella partita lì? Non lo so, ma col senno di poi è molto difficile. È troppo facile, non lo so. Io dico che se l'Italia avesse giocato come ha sempre giocato. Io dico che l'Italia non ne aveva più. L'Italia non ne aveva più. È chiaro che con la Spagna te la devi giocare all'italiana, come fai quando vai in coppa contro il Barcellona, te la devi giocare all'italiana, ti devi mettere lì e farteli rimbalzare addosso, devi fare una partita di molta corsa, e l'Italia di corsa ne aveva ancora pochina nelle gambe, devi fare una partita di grande applicazione mentale. Ho l'impressione che l'Italia non avesse più le armi per giocare una partita di quel tipo. Grazie Alessandro, grazie. Maurizio, provincia di Modena, buongiorno. Buongiorno, signor Milan. Visto Milan, che è tutti convocati, non sono Milan. Non è un problema, mi piacerebbe, ma non sono Milan. No, mi scusi, sbagliato. Quindi, visto che siamo tutti convocati, finalmente una metà di trasmissione che personalmente mi piace molto. Sono contento. Complimenti. In più, visto che parliamo sempre di calcio, calcio 5, calcio 7, calcio 11, più ce n'è. Tra poco la smettiamo, perché parliamo anche d'altro. No, ma le spiego. Mi sarebbe piaciuto leggere sui quotidiani sportivi, visto che io tutti i giorni compro il giornale sportivo, anche solo le piccole notizie, quando le nostre squadre di ragazzi, ad esempio una squadra di Mirandola e Modena, che si sono unite, hanno vinto la Champions League di hockey su pista Under 15. E su questo non abbiamo letto da nessuna parte. Io mi chiedo, se questa Coppa, questa Champions League, l'avesse vinta una squadra giovanile dell'Inter, del Milan, della Juventus, avremmo avuto paginate per dei giorni interi. Questo è un piccolo appunto, sì, che a livello giornalistico mi sembrava giusto fare. Ecco. Sì, però capisce bene che l'Hockey a Rotelle Under 15 è complicato che vada su un giornale nazionale, Maurizio, mi perdoni, è una cosa bellissima, è una cosa bellissima, certamente è una cosa che merita tutto il risalto possibile a livello locale, ma insomma io sarò molto sorpreso il giorno in cui leggerò sulla Gazzetta dello Sport o sul Corriere dello Sport o sul giornale che volete voi anche un pallino con una notizia di questo tipo. Ciò non, sia chiaro, non toglie un grammo dell'importanza che questa vittoria ha, però le dico che le dico spensieratamente che sarei sorpreso se ciò accadesse, ecco. Cosa dobbiamo fare? Ci fermiamo per il traffico? E poi cambiamo discorso perché abbiamo altre cose, perché è una Milano spensierata, anche quella del basket, quella di oggi. E qua dobbiamo chiudere, devo fare la domanda del secolo, ma la Juventus ruba secondo lei? Allora, su Twitter, mi raccomando, seguiteci su Twitter, sempre più numerosi, l'hashtag della settimana è tutti spensierati, twittate i vostri messaggi con questo hashtag. Allora, poi c'è Missione Impossibile, le parole di Marotta, lui continua a parlare facendo paragoni, è un brav'uomo ma fa anche un po' di tenerezza, sembra James Bond. Ha la missione impossibile di giustificare l'ingiustificabile. Queste parole di Pulvirenti, presidente del Catania, qui evidentemente certe cose ancora non sono andate giù. C'è chi mi dice fate una ragione, di calcio ne capisci poco, me lo scrive Massimo, è vero e me ne vanto. C'è chi mi dice che sono ridicolo come il mio collega Milan, no, sono molto più ridicolo io di Alessandro Milan. 800240024 e siete convocati anche voi sempre, tutti i giorni dalle 2 alle 3. Intanto abbiamo convocato e lo ringrazio un presidente oggi molto spensierato, e non si offenda Livio Proli, presidente dell'Armani Milano, non faccia come Stramaccioni. No, beh, spensierato no, direi che sono soddisfatto per la singola prestazione, è una botta di energia, di carica che serviva a tutti, ai giocatori, allo staff tecnico e anche a noi in società. Sì. E abbiamo goduto, perché vittorie di questo tipo comunque devono caricarci, però questa mattina siamo ritornati al lavoro sereni, consapevoli di non aver fatto nulla di speciale, se non mandarei un gol, non avrà un seguito. No, ma è chiaro che non a quest'ora del campionato i due punti hanno un valore relativo, però sono segnali psicologici in una lunga battaglia, vorrei usare un'altra parola, agonistica, sportiva con Siena, che durerà tutta la stagione. Poi vincere a Siena 9 anni dopo, magari non è caduto il muro di Berlino, ma la muraglia di Siena, sì, insomma, è qualcosa che ha un significato che va al di là della classifica dei due punti, no, Presidente? Ma sicuramente c'era da superare un ostacolo statistico anche imbarazzante, ma a noi serviva soprattutto avere una verifica del fatto che il progetto di quest'anno è un progetto che ha le basi solide, sì. E quindi uscire da questo periodo negativo arricchendoci da questi nostri errori, e apparentemente ieri sera il segnale che i ragazzi ci hanno dato è positivo, quindi soddisfazione per aver vinto a Siena, campo difficilissimo davanti alla società più titolata d'Italia negli ultimi 6 anni. Consapevoli anche di aver affrontato la partita sin dal primo minuto senza timore, a testa alta, e quindi con grande autostima, coraggio e determinazione. Questi sì, questo sono è vero. Segnali che ci rassicurano. Questo è vero. Dunque una Milano del basket spensierata che sorride oggi, anche se, come dice il presidente Proli, con moderazione. Ma mi dice, presidente, che cosa è cambiato nei giocatori che ieri hanno vinto a Siena e che dopo la sconfitta con Reggio Emilia avrebbe preso a calci nel sedere? Ma io credo che sia servito molto essere rimasti composti, non aver gestito la cosa con troppa drammaticità, aver analizzato in maniera serena e semplice quelli che erano gli aspetti emotivi dell'approccio alla gara, perché durante gli allenamenti, durante la settimana, noi abbiamo sempre riscontrato in tutti i nostri atleti un approccio corretto, una serietà e una voglia di fare corretti. quindi si è trattato solo ed esclusivamente di richiamare tutti a un senso di squadra, cioè come siamo finiti tutti dentro la buca, tutti insieme siamo dovuti uscirne. E quindi credo che questo sia stato il collante, e poi credo che non piaccia a nessuno fare brutta figura, sono ragazzi che hanno una coscienza e hanno un senso del dovere importante e hanno capito che di figuraccia, cioè non è stato solo il fatto di aver perso, ma il come abbiamo perso, siano stati i detonatori della ripartenza. Quindi anche aver deluso molto il nostro pubblico, il nostro proprietario, e anche aver deluso il proprio ego, perché prestazioni di questo tipo non possono essere accettate neanche da noi stessi. E questa, la molla è nata da lì. Presidente Prodi, lo diciamo ufficialmente, obiettivo scudetto, no? Ovviamente per la Milano del basket. Per come abbiamo capitalizzato i nostri, questo è il quinto anno, quindi siamo in un percorso di crescita che ci impone a questo punto, sulla scorta dell'esperienza precedente, sulla forza del budget che abbiamo messo in campo e sul bisogno, sul bisogno di Milano di ritornare a vincere dopo tantissimi anni di astinenza, credo che non sia corretto nascondersi dietro un dito. Stiamo lavorando tutti dal primo giorno per vincere lo scudetto. Un ultimo obiettivo, un'ultima domanda che le faccio, un altro obiettivo, magari un campionato un po' meno polemico. Ma il campionato non deve mai essere polemico, cioè quelli che possono essere dei risvolti o delle lotte fra virgolette sui principi e sui valori dello sport, ci sono i canali e ci sono gli uffici e le istituzioni dove svolgerli. Il campo deve essere sempre pulito, le squadre devono giocare nel segno dei valori veri. Noi dobbiamo stemperare magari le polemiche fra virgolette sui giornali, e se c'è qualcosa da dire, dimostrare, da chiedere e per cui lottare, lo si deve fare magari a luci spente e a microfoni spenti, cosa che noi stiamo facendo da 3 mesi a questa parte. È chiaro che poi ogni tanto qualche news arriva in superficie, ma certo, ma come è giusto che sia, Presidente, come è giusto che sia, certo, è giusto che sia così. Grazie Livio Prodi, presidente dell'Armani Milano, grazie davvero. Grazie, arrivederci anche a lei. Grazie a Livio Prodi. Dunque, io chiudo con gli ascoltatori, ultimi due convocati di giornata, 80024 0024, Fosco, provincia di Pistoia. Sì, salve. Buonasera, come va? Tutto bene? Benissimo. La sento in grande forma. Mi sento in grande forma. Sì, ascolti, io sono juventino d'occhio, no? Sì. Ma sono deluso dalla dirigenza della Juventus, che non fa niente per protestare contro questa situazione che diventa sicuramente controproducente per la Juventus, di immagine, di tutto. Non possiamo tollerare questi errori degli arbitri, dobbiamo prendere noi delle posizioni. In che senso? Che ne dice? In che senso? In che senso? Non capisco. Cioè, lei dice la Juventus che dice per favore non aiutateci più? Cioè, qui ci stanno creando dei danni d'immagine questi errori madornali. Io credo che insomma, dico una banalità a quest'ora pazzesca, gli arbitri possono sbagliano in questo momento molto spesso a favore della Juventus, e poi la mostarda ce la mettiamo tutti quanti, quindi mi sembrerebbe bizzarro in questo momento dire che la Juventus prendesse posizione dicendo per favore non aiutateci più, guai a voi se sbagliate a nostro favore. Quindi mi sembra una posizione da 14.52. Nicola da Pescara, buongiorno. Ciao, buongiorno. Ciao Nicola. Ascolta, io volevo dire una cosa che da tempo non ho sentito, da Moggiopoli, te la devo dire, quindi da un bel po' di tempo fa, ma nessuno che ricordasse nelle trasmissioni come la tua, che è una trasmissione ottima, che Franco Zeffirelli per anni nei vari processi del lunedì ha buttato via le corde vocali nel dire che c'era qualcosa che non tornava quando la Juventus veniva aiutata, e tutti lo prendevano per un pazzo. Franco Zeffirelli aveva ragione, succede anche adesso, viva Franco Zeffirelli. Scusami se ti dico questa cosa, io ho visto la partita dell'Inter. Come? Scusami che tanto, cioè, allora torniamo alla Juventus che ruba, eccetera, eccetera, eccetera. Ma guarda, non è che torniamo alla Juventus che ruba, e allora una persona allora come Franco Zeffirelli, ma sì, per anni ha detto questo, perdonami, fammi finire il concetto. Sì, ti faccio finire. Si torna dopo Moggiopoli a vedere una cosa allucinante, perché noi ne parliamo come se una cosa... si tratta di una cosa normale. Allora, ma per me il calcio deve essere preso come una cosa normale a prescindere. No, non deve è normale essere cosa... a prescindere, però fammi finire il concetto, se no non capisci cosa voglio dire, sei gentilissimo, però fammi finire. Allora, chi vede la partita Juventus-Inter dopo un precedente noiosissimo come quello di Catania, ma possibile che con un fuorigioco di 2 metri, con un fallo clamoroso sotto gli occhi di un guardialine, buona persona, bravissima persona, non venga il sospetto? La cultura del sospetto in Italia c'è. Lo sai perché ti dico questo? Ascoltami, perché ho bisogno di farti un parallelo con una cosa particolare che è successa qualche giorno fa nella politica italiana. Io ho rivisto una scena a Report, il programma di Rete 3, dove l'agnello sacrificale Bettino Craxi veniva interrogato con un piglio durissimo da parte di Di Pietro. E lui diceva, carissimo giudice accusatore, perché non cerca negli altri partiti e vede che tutti i bilanci sono falsati? È la stessa cosa che capita nella Juventus. Cioè, noi vogliamo chiudere gli occhi da 30 anni a questa parte e accettare passivamente che quando c'è di mezzo la Juventus accade qualcosa di strano. Basta, qualcosa di strano, lo dobbiamo accettare. E non allora, è allora... quello che la terna arbitrale abbia fatto sia una cosa normale. Io se il discorso è che possiamo metterci a contare tutti gli errori che vengono fatti sui campi di calcio, quelli che fanno rumore sono quelli a favore della Juventus. Se vogliamo invece accettare il fatto che la Juventus rubi, come ha domandato Milan a Renzi prima, vabbè, fate voi. Ciao a tutti. Ma se uno mantiene sempre lo stesso profilo, il famoso passo da montagna, non deve né correre né andare piano, sempre lo stesso passo.